ci divide il mare dal resto dell'Italia soprattutto e del mondo intero. La situazione è quella, bisogna avere anche una certa fortuna. Ce ne sono altre cantanti bravissime donne, Anna Maria Cherchi, che adesso gli altri nomi non me li ricordo, però ce ne sono tantissimi, veramente bravi. Tornando al discorso di Francesco De Muro, ripeto, oggi ha fondato nel mondo lirico, ha fondato alla grande, ma prima ancora, ha cantato per tanti anni sia in italiano che in sardo, ed è un tenore apprezzatissimo, il suo genere di musica italiana è sempre quello tipo alla Claudio Villa, tu lo dovresti sentire se, cantando ad esempio Granada, oppure Luna Rossa, oppure Messico, dove ci vuole voce veramente, non come questi cantanti di oggi, tutti suonati come quello che avete citato poc'anzi, che tra l'altro è anche un cantante tutto trasandato per conto mio, che mi dà la sensazione di un uomo sporco, come si chiama, quello che fa un sacco di successo, ma a livello delle ragazze che diventano pazze per quello, e a me mi dà quella sensazione di un uomo anche sporco. Non so cosa dire ancora. Vabbè, dai, facciamo girare intanto. Vai, Giofra. Sì, ciao Gianni, comunque buona cena, alle prossime. Sì, beh, a livello mondiale, ora attualmente che ricopre un posto abbastanza alto, Cibocelli, non dico che sia l'erede di Pavarotti, però insomma siamo lì, ecco, come notorietà in ambito internazionale. E diciamo c'ha delle caratteristiche particolari, così come ce l'aveva Pavarotti, cioè sono un tipo di cantanti, quelli lirici, che hanno un'impronta digitale, non digitale, ma un'impronta fonica particolare, che è spesso unica. Pavarotti, ad esempio, era toccato dalla mano del Signore, diciamo, per avere quella voce, ed era uno unico, paragonato, che ne so, a Beniamino Gigli dell'epoca degli anni 20-30, cioè, sono assolutamente particolari, non hanno confronti, quindi. E Bocelli lo stesso, che è molto più giovane, è bravissimo anche lui in ambito internazionale, sono pochi. Fa piacere il fatto che in questo campo gli italiani da secoli si siano sempre affermati, ecco, sono riconosciuti universalmente nel mondo, nel campo della lirica, del teatro e così via. Riprendi, Roberto. Salutare a Marco Giulio. Ciao Claudio, sto bene? Visto che allora li ho già salutato, non ascolto, Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Ascolta, ho tirato sull'antenna, vedi qualcosa di miglioramento con poca potenza sempre, Baracchino? Con poca potenza, Baracchino 9 più 5 pieno, la radio ultra buona, non ci sono dubbi, così è qua. È arrivata la radio? No, negativo, sto usando il baracchino, l'Airbus 482, no, assolutamente, era fuori e ci siamo sentiti, penso me la spedisca lunedì, capito? Sì, chi è? Ciao Nicola, ben sentito, caspita, io sono circa 4 km da Sassari e mi arrivi Santiago 5, un bel segnale. Figurati, arrivi benissimo. Molto bene Giulio, ok, dai. Io vado a mettere qualcosa sotto i denti che stavo lavorando, adesso ho fatto una luce e sono andato a salutarci. Ciao Giulio, ciao Gianfranco, ciao Lupo Grigio, ciao Antonio Bombolo mi sembra, ciao nuovamente Roberto. ricambio a parte Roberto, fai girare tu, vi ascolto, la più cordiale buonasera a tutti, ciao. Ehi, ciao Claudio, di nuovo ben risentito, ok. Facciamo vedere, salutare Antonio Bombolo, l'ho visto di sfuggita, l'ho sentito, se no riprende Giulio e poi Gianfranco. Vai Antonio, forse è andato a mangiare, avanti Giulio. Sì, l'aveva detto che andava a mangiare, ma adesso sta per arrivare anche Antonio Bombolo, non ci sono dubbi. E ci fa piacere, così almeno abbiamo le quattro chiacchiere anche con lui. Sì, ripeto, Nicola, guarda, ripeto ancora una volta, se tu hai modo di installare l'antenna lì, nella casa di tuo figlio, capita, allora hai risolto il problema, hai risolto il problema, invece considerato che purtroppo dove abiti tu, nella tua casa della città di Sassari, hai un po' di difficoltà nell'installare l'antenna. Io ripeto, ti sento bene, molto bene, ma io sono vicino, non faccio testo, per cui ti sentono bene anche gli altri, ce l'ha confermato anche Claudio, che tieni presente che Claudio, da dove siamo noi, grosso modo non è a meno di 15 km, guarda, di più sì, ma di meno no. Va bene, riprendi Nicola. Io ti saluto e ti ringrazio per essere entrato almeno a scambiare quattro chiacchiere con noi, così ci siamo anche potuti salutare a vicenda, non c'è problema, ci mancherebbe altro. Faccio girare per gli amici, così ti salutano anche loro e sicuramente saranno contenti di averti ascoltato finalmente e discretamente. Avanti Gioffra. Sì, ciao Nicola, no, non so se mi sente piuttosto Nicola, perché io sto facendo eccezionalmente basso, un quarto e mezzo. Comunque Nicola, ciao, se mi ascolti e buona serata, e metti un antennino, un qualcosa che renda di più di un bambino, ecco. A te Roberto. Sì Nicola, anch'io ti ascolto, Santiago 7 sei arrivato a picchi leggermente superiori a 7, però sei un po' bassino di radio, come hai detto Giulio e Gianfranco, metti sull'antenna così ti ascoltiamo bene tutti, non solo quelli che sono vicino, dai, ci risentiremo alle prossime, ciao, buon proseguo di serata, avanti Giulio. Ok, così mi fai anche compagnia nella borgata qua dove sono io, così anziché essere solo soletto come sono fino ad oggi, mi fai compagnia Nicola, se piatti un'antenna lì, che hai quella possibilità di poterlo fare, così avremo modo di sentirci frequentemente, a differenza di prima che io alle volte riuscivo ad ascoltarti, anche se fu bassino, però molte volte non riuscivo perché c'era magari il QRM troppo alto, che non capisco per quale motivo in questo periodo ho QRM Santiago 7, non riesco a capire, comunque va bene lo stesso, però è un QRM che anche una modulazione bassissima la sento ugualmente, non c'è problema. Interessante che arrivi almeno intorno ai 5 di segnale, diversamente sarebbe un pochino più critica la situazione. Va bene, dai Nicola, se sei ancora lì ti rilascio per fare l'ultimo passaggino in frequenza e dopodiché puoi anche chiudere se credi, se puoi rimanere, vuoi rimanere, ci fa piacere. Vai ancora Nicola. Ecco. Capiterà anche quello, non c'è problema, siamo vivi e vegeti, ci mancherebbe altro, le persone hanno anche quella possibilità di incontrarsi, non c'è problema. È arrivato Antonio Bombolo, va bene, ti saluto di nuovo Nicola, alle prossime, dai, ciao, buona cena e faccio venire avanti Antonio Bombolo, avanti Antonio. Kappa, salutone Nicola, io non lo so da dove modula, comunque lo saluto, salutone. Basso ti sento, dai, che ora è? Giulio, lo sento basso basso, cosa ha detto? I punti. Lo sento basso basso basso io, non riesco a sentirlo bene. Invece che è una zona negativa per me. È sempre con l'antennino, comportatevi con l'antennino, per cui, però se utilizzate riesco a sentirlo discretamente, non dico benissimo, ma discretamente. Va bene, ciao Nicola, ancora salutoni, alle prossime. Vai Giofra. Sì, ciao Nicola, alle prossime, buona serata. Niente, sì, l'ho ascoltato anch'io adesso, però sono sicuro che si può fare molto, ma molto, molto di meglio con un'antenna più lunga, ecco, ora il portatile non va da nessuna parte. Tutto lì. Ciao Antonio, ben ascoltato, ti rilancio il micro perché mi stanno chiamando per la cena, quindi anch'io un po' più tardi di quello che fai tu mi allontano per mettere qualcosa dentro. A te Nicola, saluti a tutti e buon proseguimento. Ok, allora riprendo di nuovo io visto che Nicola ha chiuso. Ciao Gianfranco, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo domani se coincide, speriamo di sì, e dopodiché faremo ancora questo. Avanti Roberto per Gianfranco che chiude. Ehi, la stessa cosa faccio io perché devo mangiare, dai, se coincide magari se c'è qualcuno ci sentiamo più tardi, mi dispiace sempre per Antonio perché lui arriva proprio nel momento in cui noi chiudiamo per motivi di lavoro, comunque se c'è qualcuno eventualmente ci sentiamo dopo, io faccio cuoretti per il momento, poi vediamo un po'. Ciao Gianfranco, buon tutto, buona cena, ciao Giulio, ciao Antonio, Nicola se c'è ancora lo saluto e poi eventuali amici poi in ascolto sul 10, cuoretti da parte mia, ciao ciao. Ok, ciao Leo, anche a te Roberto, salutoni, buona cena anche a te, a domani, se coincide sempre, speriamo bene. Avanti Antonio. Capo, ciao Roberto, ci sentiamo domani o alle prossime, ciao ciao, buon tutto. Allora tu, riprendo io, dai, ancora un pochino, ancora non mi hanno chiamato, ma già lo sai, come sempre, è questione di minuti per la cena, perché noi facciamo la cena tra le 8 e le 8 e mezza di solito. Bella serata, beh, poi se abbiamo parlato un po' di musica, tu lo chiedi, abbiamo parlato cosa che è molto, molto piacevole quell'argomento, perché so che hai un buon impianto, per cui va bene così. Peccato che non c'eri, avresti potuto partecipare e dire la tua sulla musica. Avanti al tuo. Capa, dipende da che cosa avete parlato. Dai, se Dio vuole. Se Dio vuole, dai, cominciamo con la prima, serata, dai. Ok, beh certo, sì, no, c'era un bel dialogo per cui andava bene così, ognuno ha detto la sua, ognuno ha espresso i suoi gusti musicali, soprattutto in fatto di musica e di cantanti e canzoni, per cui va bene così, e tutti siamo d'accordo, siamo tutti contenti e felici di aver passato una buona mezz'ora o tre quarti d'ora tutti insieme così tranquillamente, anche di più di mezz'ora, forse anche tre quarti d'ora abbondanti. Avanti a tu. È bello parlare di queste cose, a me piacciono, poi sono appassionato di musica. Forse ci sarà la prima serata, ci sarà, mi devono ancora dare la conferma. Ok, beh certo, certo, insomma, lo so, vabbè, aspettiamo gli sviluppi, speriamo bene, no, cosa dire, niente di diverso, va bene così, insomma, ecco. Soldini sono che entrano. Certo, gratis non ci vado, qualcosa me la devi ni dare, se no non vado, mi devi pagare pure la CIA, se no non vado ne manco, non mi devi sequestrare tutto. C'è un periodo, adesso non so che i giovani di oggi se hanno ancora quella intenzione e quella passione, perché mi ricordo, e tra uno di questi era anche un vecchio CB, che poi tanto vecchio non è nemmeno di età, forse anche più giovane di te, di età, parlo di cosa, di sapere. appassionatissimo allo stesso di musica, infatti nella sua macchina aveva una specie di bomba atomica dentro con l'impianto stereo che aveva, tutte le volte che si metteva lì davanti alla mia padiglia a suonare con quella musica mi faceva saltare quasi le macchine dal volume, mi stanno telefonando sicuramente per la cena. Va bene, allora dai, allora ne saluto, sì. Arrivo! Arrivo! Vabbè, dai, se non ci sei al telefono tu, per la cena mi hanno chiamato a casa, dalla tavernetta, io sono nella zona alta della casa, vai tu, ascolto il tuo passaggio e poi sono costretto a chiudere per la cena, vai. Kappa, dai, ci sentiamo. Ci sentiamo alle prossime, ok Giulio. Peccato che abbiamo tarotto il cuocio bello. E quella è un'altra passione comunque, quella che fanno con gli impianti stereo, un'altra passione. Ok, vai. Ok, Aldo, sì, beh certo, oggi non lo so se i giovani di oggi fanno ancora queste cose, perché facevano anche le gare, facevano, per cui a chi piace, va bene, vuol dire che ci mancherebbe altro. Va bene, Aldo, io vado a cenare, ti saluto e ti ringrazio come sempre, e a me la salutarci. Io sono io che mi trattengo poco, non tu, perché tu hai tutto il tempo adesso di poter rimanere, ma io no. Per questo ci sentiamo le prossime. Ciao a tu, tutto a posto. Ciao, ci sentiamo, ciao. Ciao, ci sentiamo. Ciao. Hola. Chi è avanti? E io schiacciando, invece c'avevo l'altro baracchino acceso. Ascolta, sono liscio, ho tirato sull'antenna, come ti arrivo? Liscio, sì, 9:15 e radio 5. Così, 9 più 15, giusto? Capa, la radio, ma buona. Ok, già va bene, allora, la radio è buona. Capa, io sono normale, diciamo. Io ho incrementato da te. Sì, va bene. Aspetta che cambio radio a vedere. Capa, così sono quei 2-5 watt. Vediamo un po' modificato. Ascolta, invece così sono con l'altro baracchino e l'MB più 5, come va? Si è abbassato, sì, come mai? Si è abbassato il segnale? Perché c'è meno watt questa. Sei 9, sì. Santiago 9? Sì. 9 qualcosa, dai, 9 spicciole. Ah, più bassa è qui. Kappa. Ascolta, la radio com'è? Buona, cra. Buona. Devo dire buona. Ok, dai, va bene allora. Kappa. Ascolta, se invece faccio così, cosa succede? Facendo radu. E ancora segnale? 9 più 15 è qualcosa. Kappa. Non ne ho idea la tua posizione, però già non è male, dai, già va bene, non c'è problema. E poi che intendi per a me? Io sono con quei 10 watt, non sto tirando, se tiro guai. Te la sento bene a tutti, non c'è problema. Kappa. E allora, gra, come stai? A posto, è bella casa, andendi Sì, tutto a posto, tutto in ordine, tutto ok, sempre facendo, ma comunque già va bene. Ogni guru che ti sei vendi? Lo so, era il mio sogno, però già sono contento lo stesso. Kappa, bisogna lavorare, purtroppo. Ci vuole pazienza, che quando comincia già a fare da voi, magari o lo fai che non ci pensi a niente, o ti viene un nervoso, due sono rigose. Infatti, è così esce. Aspetta che cambiamo veramente col Galaxy, vediamo un po' se va meglio. si va meglio? Sì, va bene, va bene. Più o meno il segnale si sì, così, sempre lo stesso, quasi. Punto più, punto meno. Sì, vabbè, linea di massima già va bene, dai. K, K. E quindi è così, dai. Oh, yeah. Fatto la tascona, fatta infernale, un po' così, un po' strana, ragazzi. Oh, vabbè, pazienza. Aspetta un attimo, tu il secondo solo. Capa, hai capa, non ce l'hai? No. Ti ascolto qua. Va bene, va bene. Ora sono col baracchino, sono. No, già arrivi bene, non c'è problema. Oh. E vabbè, facciamo un pochettino, mandare in temperatura, no? Lasciamo la temperatura. Volevo fare una prova fra un po' a massima potenza, a vedere come arrivo. Bisogna aspettare che scaldi un po'. All'uovo. K. Ora. Ora. La mappa di Nevaria. Ora. Siamo quasi al massimo. Com'è? Di più, che adesso sta salendo ancora. No, un po' di più, però tieni conto che io c'ho il baracchino, capito? K, dai, mi illumi? Nove, 12, dai, quasi 9:15. Già va bene, già, e qua bisogna aspettare che salga tutta la cosa. C'era Bailame, sono entrato uno a Taranto, non a Taranto, in Sicilia, cos'è a Cosenza, non mi ricordo dove cavolo era, comunque era in Sicilia, 9:30 Radio 5. Si è arrivato 9:30 Radio 5, no, dov'è? E andava in Radio Stereofonica, era DDA Edo, e vabbè, già lo sai. Alla scisa. K. Ah, ma vediamo, va. Ui. Ha fatto piacere, qua. È un po' di giorni che non ti sentivo, cavolo. No, anche non sto entrando, c'è troppo Bailame, troppo casino, ma devo stare fuori. Già lo so. Non ti preoccupare. Adesso ha raggiunto il picco massimo, adesso sì. K, allora è proprio lui, Ora! Andare. K, adesso mi faccio un altro paio di passaggi, mio capo. Ehi. Vabbè, arrossendo in sega. Sì, qualcosa, ma sto aspettando mi portino il coso nuovo, capito? L'ho ordinato al briccone, però non c'era quel modello, ma avevo c'è Bedumi e ci mi va a rimenizzare in Kivimi. Mamma di roba, perché l'ho ordinato, però non c'era quello lì, capito? C'era l'esposizione, ma detto, questo non lo possiamo dare. Allora l'ho ordinato, adesso appena arriva me lo consegnano. Sì, lo conosco. Io un giorno, uno di quelli, ci avevo fatto le melanzane. Ora reti i suicidi. Grande questo, è grande. Aspetta un secondo, tu che faccio una prova con un altro commutatore d'antenna. Ehi, prova. Ecco qua, sono tornato alla normalità. Oh. adesso? Guarda Antonio, sembra meglio adesso. Più o meno si sembra lo stesso. Come ho tratto l'antenna ci vuole buttato, aspetta lo cambio. Secondo chi sei io non ti sento, Non ti sento. Guarda chi sto. Eccomi qua, KK. Hola. Ehi, Gra. Ma scusa col telefono. KK. Già ci sentiamo, grazie ai controlli. Non ti preoccupare, non c'è problema. Era un